Europa 24. Un buongiorno da Gigi Donelli. Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker discuteranno della crisi siriana e ucraina e dei rapporti Russia-Unione europea a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Sarà di fatto il primo incontro ad alto livello, appunto, tra il leader russo, quello europeo, in una circostanza in cui Radio 24 sarà presente. Sarà presente anche perché quello è l'incontro economico, di fatto la Davos russa, come viene definito, in cui quest'anno l'ospite d'onore è proprio l'Italia. Ecco, Unione Europea, Stati Uniti e Russia intanto confermano reciprocamente l'intenzione di proseguire con le sanzioni economiche, innescate proprio dal tema Crimea e crisi ucraina, ma intanto si coglie qualche segnale di distensione. Stando alle dichiarazioni, tutto proseguirà ancora come negli ultimi due anni, a colpi di sanzioni e controsanzioni in attesa dell'adempimento degli accordi di Minsk. Ma sotto sotto, ora che in Europa sono al minimo le azioni ucraine, risalgono le quotazioni russe e il Forum economico di San Pietroburgo della prossima settimana, cui parteciperà anche il presidente della Commissione Juncker e l'Italia sarà ospite d'onore, potrebbe essere il teatro della distensione. Matteo Villa, ricercatore dell'area Europa dell'ISPI. Si pensava che le sanzioni sarebbero potute addirittura essere prolungate prima del voto del Brexit, quindi nelle prossime settimane. Adesso c'è un po' più di incertezza perché l'azione diplomatica russa è molto forte e anche noi stiamo cercando di capire se abbia senso aprire adesso oppure tra sei mesi nei confronti di Mosca. Non solo l'Italia, insomma, si fa queste domande. Ad esempio il Parlamento francese ha votato proprio ieri per un alleggerimento delle sanzioni, quindi ci sono forti spinte, diciamo. Questo è il sintomo di forti fratture non solo tra paesi ma anche all'interno degli stessi paesi, con il conflitto che è in uno stallo da diversi anni ormai e quindi con un tentativo di uscire dalle sanzioni perché si vede che non hanno grandi effetti. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. In un contesto che rimane complicato, pochi istanti fa una notizia: nel sud-est ucraino si continua a combattere. Secondo le autorità di Kiev, nelle ultime 24 ore un soldato ucraino è morto, altri 5 sono rimasti feriti. I separatisti dell'autoproclamata Repubblica Polare di Donetsk denunciano invece l'uccisione di una donna e il ferimento di 11 civili. Insomma, la pace e l'accordo ancora non sono nell'immediato orizzonte. Cambiamo tema, parliamo di zona euro. Nella zona euro, dice questa mattina il presidente della BCE Draghi, sono state effettuate molte riforme strutturali negli ultimi anni, specialmente nei paesi più colpiti dalla crisi. I benefici cominciano a vedersi. La Banca Centrale Europea ha avvertito oggi qui a Bruxelles che senza un'accelerazione per modernizzare le economie nazionali della zona euro, il rischio è di assistere a un impoverimento netto della società europea. Nel lungo termine, secondo il presidente della BCE, Mario Draghi, il rischio è di assistere a una riduzione strutturale dei redditi, della produttività e dell'occupazione. Il banchiere centrale ha quindi esortato i Paesi membri ad adottare riforme economiche che rendano più innovative le economie nazionali. La politica monetaria da sola non può rilanciare la crescita economica in modo durevole. Draghi ha avvertito che non c'è tempo da perdere. Ha detto in modo solenne, durante un convegno qui a Bruxelles, che bisogna agire senza indebito ritardo. La frase ha ricordato la promessa di Draghi del 2012, quando disse che la BCE avrebbe fatto tutto il necessario per salvare la zona euro in piena crisi finanziaria. La gravità del momento non è poi così dissimile. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. È tutto per l'Europa, ci risentiamo domani, la linea a tutti convocati. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.